Avessi calcolato questo impatto, son sicuro mi sarei fermato. Ma ero stanco di aspettare l'occasione buona e mi son buttato. Certo che sei stata brava con il senno di poi a dire che ho sbagliato. Ma non è possibile spezzare un incantesimo nato così all'improvviso. Come voler svuotare l'intero oceano con un cucchiaio. È come fare girare il mondo all'incontrario. Ma maledetto il giorno in cui ti ho vista lì seduta ed ho creduto che ci potesse essere un'opportunità. Ma maledetto il giorno in cui ti ho vista lì seduta ed ho creduto che ci potesse essere un'opportunità. Non pensavo che da quello sguardo sarei rimasto così scottato. Un rifiuto era scontato, ma ci ho provato, mi son pentito. Certo che per te è tutto facile, non devi fare a botte col tuo istinto. Con la voglia che ho di te addosso, adesso io collasso. Ma maledetto il giorno in cui ti ho vista lì seduta ed ho creduto che ci potesse essere la possibilità. Ma maledetto il giorno in cui ti ho vista lì seduta ed ho pensato che ci potesse essere un'opportunità. Forse non è stato stupido cercare di amarti, fosse solo un attimo. Il bene che ti ho dato mi ha cambiato e rimane intatto nel mio passato. Beh, allora a questo punto, ma benedetto il giorno in cui mi sono avvicinato e con coraggio dritto negli occhi ti ho detto ciao. Ma benedetto il giorno in cui ti ho vista lì seduta ed ho pensato che ci potesse essere la possibilità.